sarai più sola sotto le tue lenzuola. Le abitudini del letto le nascondi nel cassetto, tra le fotografie, i libri e le tue bugie. Lo sento anche da lontano che scendi con la tua mano. Meraviglia, cosa ti piglia? E vorrei volare anch'io tra le dita dell'oblio, sul profilo della vita, la gioia infinita. Che si commuove in testa le mie parole. È certo che poi la sera si crea fuori l'atmosfera, che se pensi poi al domani, amore, affoghi nelle tue mani.